GR Europa. All'Italia non serve una nuova manovra, ma è essenziale che mantenga la piena applicazione della strategia di consolidamento già adottata, che le consente di raggiungere il pareggio quest'anno. Lo ha affermato il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, precisando che Bruxelles continuerà a monitorare da vicino l'Italia. Intanto si annuncia un nuovo anno di recessione. Sarà di nuovo recessione nell'Eurozona, quest'anno prodotto lordo a quota meno 0,3%, così in tutto saranno due gli anni di recessione, compreso il 2012. In Italia va peggio, meno 1%, il doppio di quanto stimato pochi mesi fa. In Italia però vanno bene i conti pubblici, nel senso che nel 2012 il deficit è sotto il 3% del prodotto, quest'anno si scende a poco sopra il 2%. Niente manovre aggiuntive per il nuovo governo e un po' di flessibilità, forse, per i tempi del risanamento finanziario per Francia, Spagna e Portogallo. E questo è il quadro delle nuove stime della Commissione europea. Le prospettive sono incerte. La ripresa arriverà entro fine 2013 e sarà graduale. Ora siamo in terra di nessuno, con un recente passato stagnante e un futuro di economia debole, nonostante sia tornata la fiducia dei mercati finanziari sull'euro. L'anno prossimo crescita un po' più grintosa nell'Eurozona, 1,4%. Grintosa si fa per dire, se si paragona a oggi, ci vorrà ben altro per scendere dalla disoccupazione record oltre il 12%. Antonio Poglio Salimbeni, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'unione bancaria potrebbe diventare un efficace strumento contro il riciclaggio di denaro nel continente. Così Salvatore Iacolino, relatore permanente della Commissione speciale per la lotta contro la criminalità organizzata del Parlamento europeo. Lo sentiamo. Proprio lunedì sono stato a Bruxelles a presentare il primo documento di lavoro che ipotizza anche una sostanziale armonizzazione del sistema, la previsione in tutti gli stati membri del reato di autoriciclaggio del falso in bilancio. Ricordiamo che la Banca Mondiale ha stimato in 1,7 miliardi di dollari il costo del riciclaggio, che equivale al 2,7% del prodotto interno lordo, quindi l'evasione fiscale, la frode fiscale. Complessivamente il riciclaggio inteso come sistema criminale costituisce un limite alla espansione di quella che è l'economia legale e certamente un danno reale agli imprenditori onesti e ai cittadini che invece concorrono a sostenere i sistemi economici dei paesi. E questo lo ricorderà Salvatore Iacolino, relatore permanente della Commissione speciale per la lotta contro la criminalità organizzata del Parlamento europeo. L'UE, infine, deve dotarsi di norme vincolanti per far osservare la libertà e il pluralismo dei media, evitare le concentrazioni, garantire l'indipendenza e il merito dei giornalisti. E più in generale per fare rispettare davvero i principi espressi nella Carta dei diritti fondamentali. Questo è il senso del rapporto della liberal democratica romena Renate Weber, approvato dalla Commissione Libertà Civili dell'Europarlamento. Bene, con questo abbiamo chiuso questo appuntamento della nostra settimana. Il nostro appuntamento delle tre con l'Europa lunedì non sarà in onda a causa, tra virgolette, elezioni, quindi ci risentiremo martedì. Intanto un buon fine settimana a tutti voi. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.